L'abito del cristiano. Il profeta Ezechiele, al capitolo 16, racconta una delle allegorie più significative del Vecchio Testamento. Per il candore con la quale è narrata, un occidentale potrebbe restarne sorpreso, ma è piuttosto normale, secondo la mentalità orientale, fare riferimenti alla normalità della vita. Lo scopo della parabola è di dimostrare l'ingratitudine e l'infedeltà del popolo di Israele, ma noi trarremo un'altra lezione, la necessità di avere l'abito di Dio. Così dice il Signore l'Eterno a Gerusalemme. La tua origine e la tua nascita sono dal paese di Canaan, tuo padre era un amorreo e tua madre una hittea. Alla tua nascita, il giorno in cui fosti partorita, non ti fu tagliato l'ombelico, non fosti lavata con acqua per pulirti, non fosti sfregata con sale, né fosti avvolta in fasce. Nessun occhio ebbe alcun riguardo di te, per farti una sola di queste cose, avendo compassione di te. Il giorno in cui nascesti tu fosti invece gettata in aperta campagna, per la ripugnanza che avevano nei tuoi confronti. Io ti passai vicino, vidi che ti dibattevi nel sangue e ti dissi mentre eri nel tuo sangue. Vivi, sì, ti dissi mentre eri nel tuo sangue, vivi! Ti feci crescere a miriadi come i germogli dei campi. E tu crescesti, ti facesti grande e diventasti molto bella. Il tuo seno si formò, la tua capigliatura crebbe abbondante, ma tu eri nuda e nel bisogno. Io ti passai vicino e ti guardai. Ed ecco il tuo tempo era il tempo dell'amore. Così stesi il lembo della mia veste su di te e copersi la tua nudità, ti feci un giuramento, stabilì un patto con te e tu divenisti mia, dice il Signore. L'Eterno. 16:1-9. L'Eterno ricorda ad Israele che cosa ha fatto per lui. Egli lo paragona ad una fanciulla, dalla sua nascita fino a quando diventa adulta. L'Eterno ricorda ad Israele che i suoi genitori non erano del ceppo di Israele. Poi, con un riferimento teso molto probabilmente al tempo di Giacobbe, durante il quale il patriarca fu chiamato con il nome che in seguito avrebbe indicato il popolo Israele, l'Eterno rammenta che alla sua nascita egli non ricevette le giuste cure che si danno ad un bambino appena nato. Il fatto che il popolo di Israele fosse gettato in campagna con disprezzo si riferisce quando Israele era schiavo in Egitto. In seguito l'Eterno vide il popolo che si dibatteva nel sangue, e cioè che veniva duramente angariato, e lo liberò dalla schiavitù facendolo moltiplicare a miriadi. Intanto Israele era diventato una nazione adulta, rappresentata dalla capigliatura e dal seno, e che aveva bisogno di unirsi con una divinità, rappresentata questa dal lembo della veste, che è il simbolo del matrimonio. Ma il popolo di Israele era nudo, cioè non aveva ancora nessuna espressione religiosa che potesse coprire la sua condotta sbagliata. Perciò l'Eterno gli diede delle regole morali, gli ordinò di presentarsi davanti a lui con acqua, con vesti ricamate e di lino, con oro e argento, con farina, miele e olio, espressioni adatte a significare che Dio diede al popolo l'atto cerimoniale, Esodo 28:2-8, e in questo modo egli acquisì una perfezione cultuale. Nell'osservanza di questi comandamenti, Israele era bello, sapiente, e copriva così le tendenze sbagliate e idolatre, Deuteronomio 4:5-8. Ma il popolo di Israele mancò davanti all'Eterno. Ma tu ponesti la fiducia nella tua bellezza e ti prostituisti a motivo della tua fama e prodigasti le tue prostituzioni a ogni passante che era consenziente. Tu prendesti alcune delle tue resti, ti facesti degli alti luoghi di vari colori e su di essi ti prostituisti, cose che non avrebbero dovuto accadere e neppure esserci. Prendesti pure i tuoi bei gioielli fatti del mio oro e del mio argento, che io ti avevo dato, te ne facesti delle immagini d'uomo, e ad esse ti prostituisti. Poi prendesti le tue vesti ricamate, le ricopristi e offristi davanti ad esse il mio olio e il mio incenso. Ezechiele 16:15-18. La bellezza cerimoniale e morale di Israele lo fece cadere nell'orgoglio, e non contento di questo, usò le regole cerimoniali ricevute dall'Eterno per offrire la propria adorazione a altre divinità. Così l'Eterno si propose di svergognarlo. Così dice il Signore, l'Eterno: poiché il tuo denaro è stato sperperato e la tua nudità scoperta nelle tue prostituzioni con i tuoi amanti e con tutti i tuoi idoli abominevoli, e a motivo del sangue dei tuoi figli che hai loro offerto, ecco, io radunerò tutti i tuoi amanti con i quali hai provato piacere, tutti quelli che hai amato insieme a quelli che hai odiato, li radunerò da ogni parte contro di te e scoprirò davanti a loro la tua nudità, perché essi vedano tutta la tua nudità. Ezechiele 16 e 36. L'Eterno lascia che Israele esprima ciò che ha nel cuore, lascia che diventi idolatra e impuro di modo che si possa vedere tutta la sua nudità, cioè affinché tutti possano rendersi conto cosa veramente Israele ha nel cuore, qual è il valore della sua moralità. In definitiva, le tendenze malvagie, sbagliate, dell'uomo vengono nascoste con l'osservanza dei giusti precetti di Dio. La parabola di Ezechiele ha una valenza anche al giorno d'oggi, e la sua morale viene ripresa anche nel Nuovo Patto. Che l'uomo sia fondamentalmente malvagio, insanabilmente maligno per natura, Paolo nella sua missiva indirizzata ai Romani lo rivela molto bene, affermando: il bene che voglio fare, non lo faccio. E questo lo disse quando era già diventato un figlio di Dio. Proprio perché nel credente vi è del continuo questa inclinazione a compiere il male, nelle sue lettere più volte, l'Apostolo si riferisce alla necessità di vestirsi. Fate dunque morire le vostre membra che sono sulla terra: fornicazione, impurità, passioni, desideri cattivi e avidità, che è idolatria. Per queste cose l'ira di Dio viene sui figli della disubbidienza, fra cui un tempo camminaste anche voi, quando vivevate in esse. Ma ora deponete anche voi tutte queste cose, ira, collera, cattiveria, e non esca dalla vostra bocca maldicenza e alcun parlare disonesto. Non mentite gli uni agli altri, perché vi siete spogliati dell'uomo vecchio con i suoi atti, e vi siete rivestiti dell'uomo nuovo, che si va rinnovando nella conoscenza ad immagine di colui che l'ha creato. Qui non c'è che è più greco e giudeo, circonciso e incirconciso, barbaro e scita, servo e libero, ma Cristo è tutto in tutti. Vestitevi dunque come eletti di Dio, santi e diletti, di viscere di misericordia, di benignità, di umiltà, di mansuetudine e di pazienza, sopportandovi gli uni gli altri e perdonandovi se uno ha qualche lamentela contro un altro, e come Cristo vi ha perdonato così fate pure voi. E sopra tutte queste cose, rivestitevi dell'amore, che è il vincolo della perfezione, e la pace di Dio, alla quale siete stati chiamati in un sol corpo, regni nei vostri cuori, e siate riconoscenti. Colossesi 3, 5-15. In questo brano, l'Apostolo Paolo ordina di spogliarsi e per tre volte di vestirsi. È evidente in tutto il contesto che l'Apostolo si sta riferendo alla condotta del cristiano. Chi ha posto fede in Cristo deve prima di tutto svestirsi, cioè smettere di avere un certo comportamento per rivestirsi di un altro abito, cioè comportarsi in modo diverso. E, da notare come attesta il detto, che l'abito non fa il monaco, ma copre comunque la nudità e forma l'opinione degli altri. È vero che non si diventa migliori facendo il bene, perché l'inclinazione al male ci sarà fino alla tomba, ma fare il bene comunque ci evita di aver del tempo per compiere il male, ci rende graditi alle persone, ci permette di glorificare Dio. Bisogna quindi osservare i comandamenti divini non solo per amore, ma anche per tutta una serie di ragioni positive, tra le quali per non adempiere ai desideri della carne. Non vi è nulla di più snervante per noi che adempiere a dei doveri senza trasporto. Pensiamo solo a quando eravamo bambini e dovevamo fare i compiti, e questo amore, come è possibile amare quando non sento trasporto? E amore, perché l'amore è un comandamento e se non fosse tale non ci sarebbe imposto. E poi, per adempiere ad un compito verso il quale non si nutrono particolari sentimenti, bisogna comportarsi come se già si possedesse la realtà. Lo scrittore cristiano C.S. Lewis chiama questo atteggiamento una finzione. Egli dice che esistono due tipi di finzione: quella cattiva, come quando si finge di aiutare e non si fa; quella buona che conduce alla realtà. Per esempio, se non vi sentite disposti alla benevolenza, pur sapendo che dovreste, la miglior cosa che possiate fare è assumere atteggiamenti amichevoli. Poco dopo, ci si sente diversi. Molte volte, l'unico modo per ottenere una qualità è di incominciare ad agire come se già la si possedesse. Ecco perché i bambini fingono di essere adulti. Giocano a fare i soldati. Intanto, induriscono i muscoli e aguzzano l'ingegno, così che la finzione li aiuta a diventare davvero adulti. Un uomo doveva portare una maschera che gli dava un aspetto molto migliore di quanto fosse in realtà. La dovette portare per anni. Quando se la tolse, scoperse che il volto si era conformato ad essa ed era diventato bellissimo. Ci è un altro racconto sulla finzione che ci insegna un altro aspetto della verità. Una storia dal titolo La bella e la bestia. Era una fanciulla che doveva sposare un mostro. Lo sposò, lo baciò come se fosse stato un uomo. Allora, con sua grandissima gioia, esso si trasformò in uomo. A volte trattare le persone come se fossero già, esse diventano migliori. Anzi, a volte le persone diventano per come le trattiamo. Se a un bambino non si dà stima, fiducia, cresce complessato. Nel fare i primi lavori compirà dei guai, ma la stima gli dà carica. Disprezzatelo sempre, ne farete un nevrotico. Nel libro Corri Pupo Corri è narrata la storia di un capobanda ladro che è diventato predicatore dell'Evangelo grazie alla fiducia che un cristiano gli ha dato in una riunione facendogli raccogliere dei soldi e fatti portare da lui. Tutti si sono messi a ridere dicendo «E come chiedere ad un ladro di proteggere una banca?» Proprio perché dobbiamo agire come se fosse realtà, la parola di Dio di ordina di reputare i padroni facili e difficili come degni di ogni onore, 1 Timoteo 6, 1, di essere soggetti ai governatori come mandati per premiare e punire, 1 Pietro 2 e 14. I conduttori da parte loro devono governare come chi ha da rendere conto. Ebrei 13 e 17. E chi parla, come scrive Pietro, lo faccia come se annunciasse gli oracoli di Dio. Chi fa un servizio lo faccia nella forza che gli è fornita da Dio, affinché in ogni cosa sia glorificato Dio, per mezzo di Gesù Cristo, a cui appartiene la gloria e il dominio per i secoli dei secoli. Amen. I Pietro 4 e 11. In questa finzione è racchiuso il cristianesimo, in questa finzione sta l'abito del cristiano. I figli di Dio devono imparare a fare la volontà di Dio, devono imparare al punto tale che in loro avverrà un miracolo, succederà un fatto straordinario. A forza di ubbidire anche con riluttanza, ameranno compiere ciò che è giusto. È come prendere una medicina amara che ci fa bene. A forza di prenderla ci piace anche. L'abito ha il suo valore. Se l'abito del vigile incute paura, se l'abito del magistrato incute rispetto, l'abito del cristiano copre il peccato e stimola santità. Amore. Non possiamo cambiare la nostra natura corrotta, ma possiamo cambiare la nostra condotta. A Dio questo basta. Novembre 1980, febbraio 2005. Ellero.